Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, giornata pre-pasquale, praticamente festiva per i mercati, sono tutti chiusi, infatti quelli europei ma anche gli Stati Uniti, aperti i mercati delle cosiddette materie prime, quelli asiatici in particolar modo. E tra l'altro su questo abbiamo nuovi record sia sull'argento che sull'oro e poi l'euro che è a quota 1,45-46. Come capite, oggi sarà una puntata in cui ci permetteremo anche di approfondire alcuni temi che spesso non riusciamo a trattare, poi immaginando che molti di voi siano in viaggio in autostrada o in viaggio comunque, vorremmo anche parlare di un tema di cui molto si è discusso, che ci lascia un po' scettici, ma non per questo non ne parliamo, mi riferisco al cosiddetto downshifting, ossia chi decide di cambiare lavoro e sostanzialmente scambiare una carriera economicamente soddisfacente, questo dovrebbe essere a livello teorico, ma stressante, con uno stile di vita meno faticoso. C'è chi dice, insomma, il downshifting è stato obbligato in questi anni con la cassa integrazione che ci siamo beccati, ma in molti casi può essere anche una scelta. Poi i consumi, oggi il dato della Confcommercio, ebbene i dati che vi sto per leggere sono dati al lordo dell'inflazione e quindi le vendite al dettaglio sono risultate invariate anno su anno per quello che riguarda il mese di febbraio, il che vuol dire negative, soprattutto se si guarda al valore. Tra l'altro i prodotti alimentari hanno fatto un più 0,3% rispetto a febbraio 2010, ma ripeto, con un'inflazione al 2,2-2,3% siamo a un meno 2% ancora. Tra le catene, o meglio gli esercizi commerciali, chi va bene sono solo gli hard discount, quindi che vendono i prezzi di prodotti non di marca e a basso prezzo, più 1,5% nei generi alimentari. Calano parecchio anche le vendite negli ipermercati e nei settori tradizionali, quindi negli alimentari tradizionali. E ripeto, quando si dà un dato come questo, meno 2,2% negli ipermercati e in tutti i distributori che non siano discount, va sommato anche, siccome è sul valore, va sommata anche l'inflazione, quindi alla fine siamo a un meno 4,4. Chi cresce? Solo i prodotti farmaceutici, più 1,4, anche qui al lordo dell'inflazione, male anche elettrodomestici, radio, TV, registratori. E qualcosa si muove sulla casa e sulle calzature, articoli in cuoio viaggio, più 0,6%, ma ripeto, per l'ultima volta, se mettiamo dentro l'inflazione che è sul 2,3%, siamo con un dato negativo anche lì. E poi il turismo, perché spesso ci dite sì, ci sarà pure la crisi, ma l'Italia poi si muove in massa, a parte il fatto che un conto è avere la crisi e un conto non essere nemmeno in grado di uscire di casa. In questo weekend pasquale, che è uno dei pochi, diciamo, weekend lunghi di quest'anno, ci sono milioni di persone in movimento, ma anche gli operatori del turismo segnalano una primavera che non parte per quello che riguarda prenotazioni, alberghi e ristorazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio in rialzo a $112 il barile, l'oro, diciamo, nuovo record a $1,510 sui mercati asiatici questa mattina. Chiaramente delle vendite a dettaglio abbiamo già detto. C'è anche un dato interessante, qualcuno di voi qualche giorno fa ci scrisse, ma insomma gli immigrati, gli extracomunitari che lavorano poi portano i soldi fuori dall'Italia. Lo fanno tutti gli immigrati in tutto il mondo, l'abbiamo fatto anche noi per anni. Non voglio tornare sulla polemica dello scudo fiscale, faccio solo notare che oggi per la prima volta si è registrato un dato in calo per le rimesse degli immigranti, quindi la crisi colpisce anche le rimesse degli immigranti stranieri in Italia, meno 5,5% nel 2010, quanto hanno portato gli immigrati, hanno, diciamo, rimesso all'estero, per un totale di 6 miliardi e 400 milioni di euro. Ogni straniero ha inviato poco più di 1.500 euro l'anno contro i 1.734 del 2009. Il caso Fiat, ma soprattutto le dichiarazioni oggi del numero uno della CGIL Susanna Camusso, che ha detto: la strategia di Marchionne può ridurre la presenza dell'auto nel nostro paese. Resta la domanda se la Fiat sia un'azienda americana o un'azienda globale. Il problema non è Marchionne, ma la strategia della Fiat verso l'Italia. E poi un'apertura alla CISL, perché ha detto la Camusso, non in merito alla vicenda Fiat, chiaramente in questo caso, ho letto dichiarazioni di Bonanni, che è il numero uno della CISL, di qualche interesse, può sempre diventare primavera, ha rivolto un nuovo invito al dialogo con CISL e UIL. Questo perché oggi in un'intervista Raffaele Bonanni aveva sottolineato che non sarà mai la CISL a spegnere la fiaccola dell'unità. Questo però va in contrasto con quanto sta accadendo nel mondo dei metalmeccanici, perché dopo che la FIOM ha fatto ricorso in molti casi per gli aumenti previsti dal contratto del 2009 sulla contrattazione di secondo livello, quello che la CGIL non ha firmato, oggi il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, che è appunto la parte, diciamo, metalmeccanica della UIL, ha detto: le aziende metalmeccaniche non diano gli aumenti salariali previsti dall'accordo per il rinnovo del contratto del 2009 agli iscritti della FIOM, perché dopo il ricorso della FIOM, tra l'altro c'è un caso, la bullonaria Barge, accolto dal giudice nei giorni scorsi, che vuol dire che si arriva a una situazione paradossale per cui gli iscritti alla CISL UIL avranno gli aumenti degli iscritti alla CGIL, quindi FIOM no. Secondo Palombello, la non erogazione degli aumenti agli iscritti della FIOM dovrebbe essere generale, quindi valere per tutte le aziende metalmeccaniche, sono 360.000 lavoratori iscritti alla FIOM in Italia. Allora, vedo già dei messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che dice: lavoro da una grande distribuzione organizzata in una catena italiana, è un bagno di sangue, i consumi non partono. Ci arriviamo tra un attimo. Prima vorrei, e ripeto con massimo rispetto per chi ha fatto questa scelta, parlare di un tema che delle volte va anche molto di moda, si chiama downshifting, ma alcuni dicono sì, downshifting lo può fare chi ha i soldi. In realtà chi non li ha è obbligato a accettare un lavoro che ha, se va bene, se va male, in realtà deve lasciarlo questo lavoro. Allora parliamo del downshifting, che ha il vantaggio, secondo chi lo pratica, di rallentare il ritmo di vita. Eh sì, si chiama proprio downshifting, che può sembrare un'operazione quasi un po' elitaria in questo periodo in cui il lavoro manca, non è troppo, ma elitario lo è solo apparentemente, anche perché il downshifting, ossia il cambiare lavoro per avere un lavoro più basso come impegno, come retribuzione, come carica, è una cosa che coinvolge non qualche decina di persone. Sono già 16 milioni le persone nel mondo che hanno scelto infatti di rallentare il ritmo e di cambiare il lavoro. Downshifting è un termine che nasce, se così per curiosità, nel 1994 per indicare il comportamento di alcune persone che, pur avendo più tempo a disposizione, si dichiaravano pronte a ridurre ulteriormente il loro stipendio pur di avere appunto maggiore libertà per sé. Ripeto, può sembrare strano che, occupandoci tutti i giorni dei dati sulla disoccupazione, della cassa integrazione, dei giovani uno su quattro che non riesce a trovare lavoro, né lavora né studia, ci occupiamo di downshifting. Diciamo che il target, come si direbbe in gergo, infatti questa volta non riguarda tanto i giovani, ma riguarda chi ha superato i 30, forse anche i 40 anni, e che viene da un percorso di carriera, di successo forse, ma sicuramente di alto stress, di lavoro con molte pressioni. E di downshifting sta scrivendo ormai da anni un collega, forse a questo punto ex collega, visto che prima si occupava di comunicazione, l'ho fatto anche come responsabile della comunicazione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, coetaneo perché ha 40 anni, si chiama Simone Perotti, ha scritto un primo libro adesso basta, casa editrice Chiare Lettere nel 2009, e poi adesso è arrivato il secondo libro, sempre sulla traccia di questo downshifting, del cambiare vita prima ancora che cambiare lavoro, in libreria in questi giorni, sempre Chiare Lettere, la casa editrice, Avanti Tutta il titolo. Simone Perotti, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei ha fatto manager a 40 anni, è arrivato insomma a dei livelli anche importanti, e poi a un certo momento ha deciso di mollare tutto e dedicarsi, non è che non lavori più, lei sostanzialmente si è trasferito a vivere su una barca a La Spezia, scrive, naviga, fa l'affitta barca, fa di tutto, poi ce lo racconterà, perché il downshifting non significa, ripeto, non lavorare, né significa starsene su una hamaca a guardare i tramonti. È una scelta un po' diversa. La cosa che mi interessa perché insomma, qui stiamo ragionando di un mercato del lavoro che si contrae, di teorie che dai tempi di Rifkin dicono insomma alla fine del lavoro bisognerà avere più spazio per se stessi e meno spazio per il lavoro. Io ogni tanto dico certo che se uno passa più tempo in casa, delle volte con la famiglia o i figli, delle volte la stermina la famiglia, perché il lavoro è anche un modo per uscire da certe logiche. Ma detto questo, il tema c'è tutto, perché ci rendiamo conto tutti che c'è una corsa, una rincorsa, un qualcosa che non si capisce. Le pressioni che arrivano dai grandi gruppi sono di riduzione dei margini, dei benefits e di tutto un insieme di cose. E qualcuno si pone anche la domanda, ma ha senso continuare così? Quando qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata raccontando che mancavano 3.000 pasticceri, sono arrivate moltissime domande di persone che dicono ma io sono un quadro dirigente, mi hanno ridotto lo stipendio, siamo in mobilità, insomma io voglio fare il pasticcere. Anche questo, per un quadro, rientra nella categoria del downshifting, così capiamo meglio dove ci stiamo muovendo. Prima di tutto però un passaggio del suo primo libro, che è già la decima ristampa, Adesso Basta, Lasciare il lavoro e cambiare vita, è il momento della sua scelta. Ricordo benissimo il giorno, il luogo, perfino l'ora. Avevo 32 anni e mezzo. Ero in macchina sul grande raccordo anulare, a Roma. Erano le 7:35 ed ero fermo. L'aria condizionata ce la faceva a malapena. Il sole di quel 4 luglio picchiava giù duro. Intorno a me solo automobili in coda. Io al volante, camicia e cravatta, telefonini tutti in funzione. Mi sono guardato intorno e ho pensato... Così non va. Quel giorno è uno dei momenti di svolta della mia vita, uno dei tanti. Certo è che quel mattino mi parve tutto più insensato del solito. Un'ora e mezzo per andare in ufficio. Parolacce a chi si infilava nelle code dalla corsia d'emergenza. Schizzi di adrenalina nella gincana del traffico. Poi un giorno di lavoro duro, 10-12 ore, perché chi esce per ultimo fa carriera per primo. E via, un'altra ora piena per tornare a casa. Altri slalom, buche da evitare, incidenti sfiorati a ogni chilometro. Per chiudere la giornata tardi, ansimante, privo d'ogni residua energia. Un giorno ancora, come ieri, per ricominciare domani. E ancora, ancora, forse per sempre. Capita a volte di avere un istante di lucidità, come ci si alzasse dal suolo di qualche metro, e di vedere le cose come sono veramente, non come ci raccontiamo che siano. Quel giorno... andò così. Presi la prima via di fuga. Cercai un bar con i tavolini all'aperto. Mi sedetti a bere un caffè. Mi misi a pensare. Allora, questo è il momento che lei racconta in Adesso Basta dell'epifania, direbbe Joyce. Il momento in cui ha capito che le cose così non potevano funzionare. Domanda. È una cosa che si può permettere solo chi ha già dato, per cui... è già arrivato a determinati livelli, ha un gruzzolo da parte, parliamoci molto chiaramente, e poi magari anche single, non ha grossi legami affettivi, non ha i figli da portare a scuola, cioè è un qualcosa di elitario, non solo nel senso classista, ma come numero e dimensione? Ma direi di no, anzi, chi ha di più fa molta più fatica a diventare uno che vive sobriamente, perché deve rinunciare a più cose. Il segreto qui non è avere tanti soldi da parte, chi ce li ha è più fortunato naturalmente, può smettere di vivere di rendita, ma diciamo che la norma non è questa. Qui si tratta di cambiare vita, perché la vita che facciamo non porta benessere. Gli oggetti per cui noi diventiamo schiavi, perché per comprarli dobbiamo lavorare come dei matti, essere competitivi, restare al passo, quegli oggetti non ci rendono felici, non servono al nostro benessere, quasi mai. Se siamo sinceri, realmente è così. È molto difficile farlo, ma occorre vivere in maniera più sobria, consumare meno, vivere in una austerità che non è soltanto dovuta alle crisi periodiche, ma è a scelte di vita, di essenza, di essenzialità. Questo consente di avere costi d'esercizio, direste voi, molto bassi, e quindi è un autofinanziamento. Costi di esercizio sulla propria vita, nella gestione della propria vita. Sì, su questo ci sono varie teorie, noi ce ne siamo occupati anche a livello macroeconomico, la teoria della decrescita, il superamento del PIL. Su questo il mio scetticismo è forte, ma non tanto sull'obiettivo finale, ma quanto su quello che ci sta in mezzo, perché decrescere significa guadagnare meno tutti, le aziende produrre meno, i consumi ridursi, gente che va in cassa integrazione, disoccupati. Questo, cioè, sulla decrescita io... Diversamente occupati, sì. Su questo, sulla decrescita in senso stretto, io ho delle forti perplessità, con tutto rispetto per la Touche, perché non mi si spiega mai che cosa succede nel frattempo, cioè quanti scontri sociali, che instabilità economica, che tensioni sociali possono venire. Altra cosa invece è ragionare sulle scelte personali, sui percorsi personali, di questo stiamo parlando. Ripeto, il tema c'è tutto, lo dico anche a chi scrive, perché ogni volta che noi raccontiamo di altri lavori, molte persone che fanno gli impiegati a Milano, a Roma, Firenze, Bologna, Bari, non mi interessa dove, e che sono in macchina e che stanno tornando, visto il nostro orario, di solito a casa dal lavoro, imbottigliati, noi ci auguriamo sempre che siano imbottigliati, così ascoltano di più la radio, ma al di là di questa pretesa molto cinica, ogni volta che proponiamo una cosa di questo tipo arrivano molti messaggi di persone che non sono disoccupate, che non dicono voglio fare il pasticcere, voglio fare il ristoratore perché devo sbarcare il lunario, perché vogliono cambiare vita. Domanda, in questo momento lei si mantiene facendo un po' lo skipper, un po' lo scrittore e quante altre cose, ecco, peraltro, questo mi interessa capire, soldi. Cioè quando lei ha smesso, il problema dei soldi ce l'ha anche lei, non è che Recce Bombo, no. Insieme alle sigarette, come le compri, no? Esatto. Vedi gente, ti muovi, fai cose, ma le sigarette però... Da, piccola premessa, hai smesso di fumare. Quando si parla di queste cose ci si ferma sempre a pensare all'8% che non ha il lavoro in questo paese e tutto quello che ne consegue, quello è un problema serio, lo Stato deve occuparsene, è un problema sociale, ma nessuno pensa mai al 92% che il lavoro ce l'ha. E che se desidera così tanto, come sembra dal successo dei miei libri, piuttosto che dal seguito che hanno trasmissioni come la vostra, se vogliono così tanto cambiare, vuol dire che tanto benessere quel lavoro non gliel'ha portato, perché altrimenti non si spiega. Se uno sta bene, non vuole andare via da dove sta. Io consiglio a tutti cautela, proprio per rispondere alla domanda che faceva lei, perché poi fuori bisogna comunque vivere. Il problema è vivere con poco, con pochissimo, per cui io campo con 800 euro al mese, credo si possa fare ancora di più, e sono neanche nella fascia migliore perché sono single, mentre le coppie senza figli ovviamente fanno economie di scala. Io vivo per mangiare ogni giorno 5 euro, si possono spendere 5 euro mangiando molto bene, una coppia ne spende 8 naturalmente, non 10. Per guadagnare pochi soldi occorre fare poco lavoro. Io ho investito per anni cercando di diventare un buon comandante di imbarcazioni, uno che poteva fare l'istruttore di vela, lavare le barche. Per lavare una barca si prendono 90 euro. 90 euro a 5 euro al giorno per mangiare non sono pochissimi. Il problema è che se con quei 90 euro bisogna farci anche tantissime altre cose, comprare l'abbonamento a Sky 29 euro al mese piuttosto che non sprecare soldi in shopping compulsivi, sprecare soldi andando con la macchina a fare cose inutili, insomma occorre avere un equilibrio, chi ha un equilibrio di solito non spreca soldi. Sì, devo dire che 800 euro purtroppo è anche il salario d'ingresso e anche se lo stabile di molti ragazzi che noi vediamo a 25-26 anni, quindi è loro... Meno 45. Loro il downshifting, cioè ci sono nati con il downshifting, e se è avanti così, ahimè, non è neanche una scelta. Sentire, scusi, perché qua sennò si va a volte a fare un pochino di comprensibile peraltro demagogia. Io quando avevo 24 anni ero precario, allora non si usava questa parola. Certo. Ho lavorato 2 anni senza avere nessun tipo di contratto, guadagnavo 63.000 lire lorde al giorno quando mi chiamavano, il mio problema era farmi chiamare ogni giorno sull'altro, quindi io lavoravo per me. E di lì in avanti, come tutti, ho fatto la mia gavetta, insomma, e chi entra adesso e ha 800 euro di stipendio ed è un giovane single senza problemi di responsabilità con gli altri, adesso io francamente non vedo perché dovremmo dire che sta così male, perché si può vivere con così poco, è appena entrato, guadagnerà di più quando farà lavori migliori. Il mio timore è su questo, d'accordo con lei che 800 euro possono essere un salario d'ingresso e quello che noi vediamo, ma entreremo su un altro tema, è che si è schiacciata la curva. Se prima facevi 800, certo. Poi dopo 5 anni arrivavi a 1200, poi a 35 arrivavi a 1.800, qui entrano 800 e dopo 10 anni sono a 1.000. Questo quindi... è uno dei motivi per cui vogliono cambiare, perché sanno, contrariamente a quello che sapevo io quando sono entrato nel lavoro, che dopo 10 anni sarei stato altrove. Oggi le persone, il 92% che il lavoro ce l'ha, sa che fra 10 anni avrà fatto una fatica terribile, ma sarà rimasto lì. E qui torniamo al tema del futuro, che non è più quello di una volta, nel senso che appunto la mia generazione, quella di Perotti, sicuramente è entrata nel mercato del lavoro sapendo che, a meno che tu non fossi un completo mona, e ce n'erano, ce ne sono, quelle, insomma. Grazie al cielo che lasciano spazio ad altri, ma insomma, se ti fossi solo impegnato in maniera normale, seria, la tua curva, diciamo, del guadagno, di quello che era il tuo income, per usare termini un po' sofisticati, sarebbe stata inesorabilmente in crescita. Adesso non è più così, non è più garanzie su questo, non è più garanzie che a un aumento anche dei ruoli corrisponda un aumento delle retribuzioni, fatto salvo per i grandi manager con i bonus, ma di questi oggi non ci occupiamo. Detto questo, c'è un altro elemento che mi interessa. Lei dice, ma bisogna fare dei sacrifici, non si può pretendere, se guadagnavi 2.000 o 3.000 euro al mese, di fare un downshifting guadagnando la stessa cosa, non sarebbe down. C'è un ragionamento in realtà più ampio, c'è una scelta anche di vita dietro, non è solo la crisi, diciamo, della mezza o quasi mezza età. C'è un altro passaggio che mi interessa del suo primo libro, Adesso Basta, dove si fa un ragionamento più sul modello sociale che sul modello individuale. Quando questa storia è iniziata, nessuno aveva le categorie critiche per rifiutare, per dire no. La scuola non ci ha mai insegnato il cambiamento. La famiglia ci ha offerto modelli da imitare, sempre vicini alle tendenze più convenienti per la sicurezza e il comfort. La pubblicità ci ha offerto un quadro netto, da emulare. Abbiamo anche smesso di leggere perché certe voci fuori dal coro ci infastidivano, ci sviavano, facevano un rumore spiacevole alle nostre orecchie. Ma il risultato di tutto questo avanzare a occhi chiusi, accettare le regole imposte dal profitto e dal consumo, è un benessere fittizio. Il nostro benessere è economico, certo, di mezzi, di strumenti, di giochi, di media e di chiacchiere. Ma non produce lo stare bene, non agevola armonia ed equilibrio, pace interiore, sicurezza. Non in tutti, non nella maggioranza delle persone abbienti. Tutto questo almeno finché qualcuno, singolarmente, non dice basta e vede. Vede che così non va, che le ore nel traffico sono alienanti, che la schiavitù del lavoro è un ricatto insopportabile. Vede che i sentimenti e le relazioni sono schiacciate in un angolo lontano. Vede che l'acquisto di beni è solo un produttore di bisogni ulteriori, che nessun bene ulteriore potrà soddisfare, che necessiterà però nuovo lavoro, nuovi compromessi, per essere ancora possibile. Vede soprattutto che non c'è alcun guardiano, alcuna camionetta di militari che ti spara se esci dal gruppo, e che non ci siamo accorti di qualcosa di clamoroso. Le regole che ci rendono schiavi ci impediscono di constatare la nostra schiavitù, ma le abbiamo accettate noi. Nessuno ce le ha imposte per forza. Qui c'è una riflessione un po' diversa, cioè al di là degli elementi esterni che ti hanno portato, cioè ognuno è artefice del suo destino in qualche modo, certo, chi più chi meno, ma soprattutto c'è una frase nel libro che riprende un filosofo che insomma, è considerato uno dei filosofi più importanti della contemporaneità, Zygmunt Bauman, che dice: ognuno di noi è artista della propria vita, che lo sappia o no, che lo voglia o no, che gli piaccia o no. Allora, sul suo blog, in realtà, che tipo di domande arrivano e che tipo di profili ci sono, che tipo anche di critiche ci sono? Ma nell'ultimo libro li ho classificati, sono tanti, diversi, certamente tutti accomunati dal concetto di paura. Questa è un'epoca in cui tutti hanno il terrore di cambiare, perché il messaggio che viene dalla società, di cui i media sono poi il portavoce, se esci dal sistema sei finito, se esci da, da qui e ti ribelli, sei spacciato. In realtà non è così. Alla fine la gente sta credendo molto in questa possibilità di dialogo, viene molto sul mio blog, va in altri blog che parlano di queste cose, perché ha visto che ci sono delle testimonianze. Le persone non possono cambiare, ma non muoiono, continuano a morire a 90 anni o 85 anni, come sempre. Però avranno tentato. Morire senza aver tentato è tragico. Morire tentando, eventualmente fosse così, sarebbe anche legittimo, ma per di più non si muore, si vive solo in modo diverso. Le persone hanno delle enormi paure. Paura di dirlo alla moglie, ai genitori che hanno investito per farti studiare, paura di ritrovarsi senza niente da fare, perché la libertà da la capiscono tutti, ma la libertà di, poi è complicato, no? Di fare che faresti se fossi libero tutto il tempo? Non è che si improvvisi una cosa del genere, naturalmente, è il terminale di un percorso e di un serrato dialogo onesto e sincero con se stessi. E poi paura di non rientrare, di essere criticati, di non poter rientrare, tornare indietro, di non farcela con i soldi. Questo paese morirà con una moneta in bocca parlando di soldi. Tutti parlano di soldi, in realtà il problema dei soldi è un problema, naturalmente, un problema grosso, con cui io, personalmente, tutti parlano di paure, io parlo di realtà, mi confronto realmente tutti i giorni, quindi lo so meglio di tutti che è un problema. Però i soldi si possono anche trovare, soprattutto se uno ne ha bisogno di pochi, ma quello che è molto più difficile da trovare è l'equilibrio di riuscire a divertirsi senza spendere un centesimo. Questa non è una cosa che si improvvisa. Il messaggio che viene da parte di tutti è opposto, che se tu vuoi divertirti devi necessariamente avere del denaro. Tra l'altro più ti vuoi divertire e più denaro devi avere, il che è alienante, è lo strumento, diciamo, intangibile della schiavitù. Ed è soprattutto una cosa a cui basta dire non è vero, io voglio tentare di fare diversamente. Io ci ho messo 12 anni naturalmente per far questo, non è che ho deciso in un giorno, schioccato le dita e sono diventato un non consumista. Però oggi io non faccio parte di nessun target, non mi si può comunicare nulla se non facendo tanta fatica dal punto di vista commerciale, e lo dico da ex comunicatore, perché io non compro nulla, compro il meno possibile, perché non vedo perché io devo mettere a repentaglio la mia libertà acquistando cose il cui benessere, il cui benefit è terribilmente effimero e transitorio, quando posso invece investire le mie risorse, la mia intelligenza, quello che so fare per tentare di divertirmi a costo zero. Allora, adesso abbiamo il meteo e la pubblicità. Vedo moltissimi messaggi e questo mi fa piacere. C'è qualcuno che dice: ma non è un tema classico di Focus Economia? Siamo prima di Pasqua, le borse sono chiuse, lasciateci respirare ogni tanto. Ma molti altri messaggi invece contestano il fatto che questa sia una scelta che si può fare solo quando si hanno i soldi. Mi sembra che questo tema l'abbiamo già esplorato. C'è un altro tema che riguarda invece l'idea che questa sia una fuga dalla realtà, che mi interessa un po' di più, perché ancora non te l'ho chiesto. Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri SMS. C'è anche chi dice: ma insomma, se tutti facessero così il mondo si fermerebbe. È chiaro che stiamo parlando di una fetta, non della maggioranza. C'è anche chi, come Latouche, nostro ospite alcune volte, ritiene che invece tutto il mondo occidentale debba darsi una calmata, frenare, andare in decrescita sul PIL, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Qui stiamo parlando di percorsi individuali che non possono sicuramente valere per tutti. Ci risentiamo dopo il meteo. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tantissimi messaggi sul downshifting, molti di critica, altri invece vogliono sapere il nome del libro. Il libro si chiama Avanti Tutta, l'autore Simone Perotti, la casa editrice è Chiare Lettere. Vorrei riprendere però, Simone, da dove ci eravamo interrotti. Il tema che emerge da altri messaggi, non quelli su come fai a vivere, qui l'hai anche chiarito: riduci i consumi e sostanzialmente fai lo skipper, qualunque altro lavoro ti consente di vivere, l'affitta barche e quant'altro. Però insomma, l'idea che sia una fuga dalla realtà, cosa farai da vecchio o da anziano? Siccome a noi la fuga sembra sempre un atto di vigliaccheria, vorrei capire se nel downshifting ci sia una fuga. No, fuga assolutamente. Quando uno scappa c'è sempre qualcuno che lo insegue e tra l'altro prima o poi statisticamente lo acciuffa. Il modo peggiore per iniziare un cambiamento di vita è dopo un fallimento, per dire, no? Tutti hanno la sensazione di dire: esatto, senti, sai, mollo tutto, vado, ma andatevene via. Invece non è così, no? Bisogna, secondo me, lasciare quando tutto va bene, cioè, al meglio che si può, in modo che non sembri una fuga e non sembri un ripiego da un fallimento. Iniziare con una sconfitta alle porte non è proprio il meglio per una grande campagna vittoriosa, insomma. Occorre veramente fare un po' di saldo della situazione. Io conosco tantissime persone che lavorano 15-16 ore al giorno e sono felicissime, non si lamentano mai. Se potessero lavorerebbero 25 ore al giorno, se ce ne fossero. Io però prendo atto che centinaia di milioni, milioni di persone si lamentano ogni giorno, vivono il lunedì come una tragedia, non mi sembrano l'espressione massima, i testimonial di questo benessere, e queste persone occorre che si facciano delle domande e si diano delle risposte. Naturalmente tutto quanto viene calato sul tema del denaro perché è più semplice, perché mettiamo che tu il denaro lo avresti, sapresti stare a casa senza i colleghi che ti riempiono la giornata, magari anche di fregnaccia, mi si passi il termine, ma te la riempiono, senza l'anda e rianda quotidiano che è una specie di ronzare su non so quali fiori. Ecco, quello è un problema psicologico, però è un problema che non ha niente a che fare con l'economia domestica e con riuscire a fare. È un problema individuale, certo. Problema individuale. Viene sempre in mente quella battuta di Beppe Grillo che diceva: uno al lavoro non lavora e basta, socializza, si fa l'amante, si fa gli amici, poi va in vacanza d'estate e non conosce nessuno. Esatto, esatto. però voglio dire, io massimo rispetto per tutti, si sta solo dicendo che, attenzione, non è pensabile che tutti scelgano di starsene a casa o di lavorare da casa, perché il telelavoro per esempio è saltato sulla base di elementi più psicologici che non economici, cioè la gente non voleva starsene a casa perché non sopportava più l'ambiente familiare, si sentiva tagliata fuori dall'ambiente lavorativo, e quindi il telelavoro, che sembrava negli anni 90 la grande frontiera, è miseramente fallito anche nelle grandi corporate che hanno provato ad applicarlo. Nessuno vuole telelavorare, se uno deve lavorare vuole andare in un luogo di lavoro, ma anche perché lavora meglio, forse perché solo gli scrittori riescono a lavorare in pigiama da casa, la maggior parte delle persone hanno bisogno anche di un contesto sociale in cui essere stimolate. Si sta dicendo una cosa diversa, si può ripensare alla propria esistenza, visto che i modelli che arrivano da fuori, qui torniamo nel finale ai temi classici di questo programma, cioè una manifattura che si sposta verso l'Asia, un mondo in cui chiaramente i bisogni indotti sono in affanno, si chiede all'Europa di fare servizi e prodotti di alta qualità, ci rendiamo conto che stiamo rinunciando ad altri elementi, che i cinesi sono più pronti di noi, gli indiani, i brasiliani, a stare nel traffico, a guadagnare poco, perché hanno un altro futuro che noi non abbiamo più, hanno avuto i nostri padri. Beh, il ragionamento su che cosa, quali siano i motivi per cui valga la pena vivere, la famosa classifica di cuore di tantissimi anni fa, beh, il ragionamento si impone. E in ultima battuta lavorerei sul profilo dei blogger, perché io ho letto alcune cose, ci sono diversissime donne di 32, uomini di 37... Il punto è questo, alla fine lo conosciamo poco questo paese, io perlomeno non lo conoscevo, ignoravo che sarebbe stato possibile nel corso solo di un anno ricevere 80.000 email e vedere vendute tante tante copie di questi libri a persone che non si identificano affatto nel target che abbiamo detto prima. Cioè non sono persone che vanno a lavorare perché sennò non saprebbero cosa fare e non vedono soltanto la realtà attraverso l'economia, ma sono persone che invece si pongono il problema di una vita diversa, hanno dei valori, pensano che si debba vivere senza consumare, senza sprecare, fuori dal consumismo, fuori da questo relativismo, fuori da questo capitalismo, non dico dal capitalismo, ma da questo certamente sì, perché sta segnando decisamente il passo in termini di produzione di benessere, e che hanno aspirazioni legittime, provano soltanto un drammatico senso di impotenza, perché uscire dal sistema non è facile, perché risolvere i tanti problemi individualmente fuori da qualunque contesto organizzato richiede molto coraggio. Sono certamente quelli tra i 30 e i 50 anni, la categoria dei cosiddetti quarantenni, quelli che avevano 15 anni nel 1980, che venivano dopo la contestazione, che una vera adolescenza non l'hanno mai vissuta, che hanno scelto il loro corso di studi pensando alle possibilità reddituali del lavoro che gli avrebbe portato. Sì, perché c'erano, ma certamente a 19 anni, quando ti iscrivi a economia invece che iscriverti al conservatorio perché a economia sai che avrai più facilmente un lavoro, tu non sei un diciannovenne, sei un quarantenne a 19 anni, sei un uomo già adulto, diciamo così, no? Che non... Beh, i modelli erano anche diversi, c'era tutto un modello che andava verso, certo che sì, e certo il capitalismo, quel tipo di capitalismo, mi dispiace, ma funzionava anche meglio, perché obiettivamente quello che prometteva poi te lo dava in larga parte, ci dava crescita economica, crescita professionale, crescita delle iniziative individuali, le milioni di imprese che si sono aperte in questi... Ma le dirò, io avevo anche la speranza che il ruolo dell'impresa nella società fosse maggiore. Io ero un giovane di sinistra quando ho iniziato a lavorare, ma credevo molto nell'impresa. Quando l'azienda mi formava, mi faceva fare training, io mi sentivo un privilegiato, uno che sarebbe diventato un cittadino migliore. Poi un po' gli scandali, un po' le crisi, un po' certi comportamenti in impresa, francamente a me hanno fatto un po' calare questa idea. Sì, lei si riferisce, lo dico perché conosco la sua esperienza professionale, soprattutto le imprese grandi, cioè noi parliamo sì, molto di piccole, certo. Le società di servizi, e beh lì insomma c'è tutta una riflessione da fare sulla la poca formazione che si fa. I lauti guadagna i top manager, i guadagni troppo diversi da quelli degli impiegati. Beh, lo raccontiamo da anni. In America, insomma, se si prendono le prime 100 grandi imprese negli anni 70, la differenza tra quanto guadagnava il numero uno e quanto guadagnava l'impiegato medio era di 1 a 73, cioè 1000 euro l'uno, 73.000 euro al mese l'altro. Siamo arrivati a 1 a 274. È cioè, ignobile questo. Per mille, secondo me, sicuramente non è un meccanismo che. E poi non c'è controllo sui risultati di questi. Questo manager, lo sappiamo, diciamo. E tra l'altro, obiettivamente, possiamo sostenere quello che vogliamo, ma non esiste un manager che valga 274 teste. O comunque lo deve dimostrare ogni giorno. O lo deve dimostrare ogni giorno. Comunque, ragazzi, qui andremo troppo in là, non vorrei tornare sul tema dei bonus. Invece, grazie a Simone Perotti per averci raccontato la sua esperienza e quella che emerge anche dalle migliaia di mail che riceve. Grazie a voi. E vedo che comunque i messaggi ci sono, tantissimi. Adesso però c'è il traffico, chiedo scusa per il ritardo, quanto mai importante oggi. Poi andiamo a parlare di consumi, che col downshifting un po' si collegano. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo continuare con il downshifting. Ci interessa trattare temi, lo dico ai molti che scrivono, ma insomma è troppo comodo se non hai figli, se non hai grossi impegni. È chiaro che non è per tutti, così come una carriera fatta di 15 ore di lavoro al giorno non è per tutti. Si tratta di valutare diversi modelli. Mi sembra invece, così la chiudo, che sul tema delle grandi imprese che formano meno ci sia poco da dire. Purtroppo insomma, è un problema, l'abbiamo affrontato molte volte in questi anni, non tutte, ci mancherebbe, però insomma, una volta c'è una capacità anche di formare di più i propri dipendenti. Chissà se in questa scelta, o da anche da questa scelta di consumare meno, liberarsi dai bisogni indotti, derivano poi i dati che stiamo per commentare. I dati sono molto, ci riportano al quotidiano, sono molto più prosaici, se volete, del ragionamento su cosa fare della propria vita e delle soddisfazioni o non soddisfazioni che si hanno. Sono i dati diffusi oggi dall'Istat sulle vendite al dettaglio, quindi le vendite per i consumatori, non quelle all'ingrosso, che sono formalmente invariate anno su anno, cioè febbraio 2010 su febbraio 2011. Dico formalmente perché è tutto all'ordo dell'inflazione, quindi in realtà lo zero significa un meno 2,3% in valore, e poi andando nei prodotti, in alcuni casi va anche peggio, perché tra i prodotti non alimentari abbiamo, a parte i prodotti farmaceutici, più 1,4%, sempre all'ordo dell'inflazione, quindi anche questi negativi. Poi abbiamo elettrodomestici, radio, TV, meno 2%, che diventa un meno 4,2% almeno. Strumenti musicali supporti magnetici meno 7%, casa, ferramenta, utensileria e calzature, articoli in cuoio fanno un più 0,6%, ma anche qua, ripeto, vuol dire in realtà in valore un meno 1,4%. Gli alimentari, che sono la parte più rilevante delle vendite al dettaglio, più 0,3% a febbraio rispetto a un anno prima, anche qui vuol dire meno 2% in valore. Dottor Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi della Confcommercio, buonasera. Buonasera. Allora, oggi voi avete detto, commentando questi dati, la Pasqua, scusate, non c'è ancora nessuna primavera. Non so se riguardi il downshifting obbligato di molte categorie, perché c'è il downshifting che uno sceglie, che è quello che raccontava Simone Perotti, c'è il downshifting che uno si deve imporre, perché se guadagni meno devi per forza ridurre i consumi. Ma siete rimasti sorpresi o in realtà vi ha confermato il dato una tendenza che vi aspettavate? No, ce l'aspettavamo perché l'ICC, il nostro indicatore, quello su febbraio che diamo con un mese di anticipo rispetto all'Istat, sostanzialmente prevedeva una cosa del genere, proprio più 0,1 e meno 1,7 al netto dell'inflazione in termini di consumi. No, purtroppo credo che questi numeri non abbiano granché a che fare con una scelta, con uno stile di vita che può avere anche un valore. Magari fosse così, diciamo. No? Temo che non sia così, perché questi primi mesi dell'anno confermano la debolezza non solo dei consumi ma dell'economia nel complesso. Mi pare che anche Confindustria dica che il primo trimestre della produzione sostanzialmente è debole, anche se positivo. Le stime, per esempio, che fa Prometeia sul reddito disponibile delle famiglie, cioè sui quattrini al netto di inflazione di cui possiamo disporre nel 2011, sono stime intorno al meno 0,6, e quindi questo si riflette in una contrazione dei consumi in termini reali. Poi in termini monetari si va a pareggio. Lei prima toglieva lo stesso livello di inflazione dalle varie categorie, probabilmente sì, vero, gli alimentari sono andati peggio. Ecco, sugli elettrodomestici forse l'inflazione è modesta, però nel complesso credo che questi primi mesi, il dato di febbraio lo conferma, smentiscono, diciamo, le attese, purtroppo non nostre, e di pensare che il 2011 fosse un momento di svolta. Invece noi pensiamo che la transizione dalla recessione alla ripresa si confermi molto lunga e piuttosto difficile. Sì, lei ha ragione, nel senso che poi io citavo l'inflazione complessiva del paniere dei beni, ogni settore, ha fatto bene a ricordarlo, Bella, ogni settore in realtà ha la sua di inflazione. In alcuni casi, nel caso degli elettrodomestici, non c'è mai stata, c'è stata deflazione in questi anni, in molti settori, in molti casi. Negli alimentari no, per cui andrebbe poi levato... ho fatto la sottrazione con l'inflazione per settore. Io facevo un ragionamento più generico, sicuramente più impreciso. Dopo il GR, però, vorrei capire e vorrei sentirla commentare un altro dato che riguarda i canali distributivi, perché anche qui il segno negativo non colpisce solo i discount, più 1,5% di vendite alimentari, mentre ipermercati e alimentari tradizionali segnano un meno 2,2% in valore. Anche qui a spanne significa un meno 4%. Dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata di Focus Economia pre-pasquale, nel senso che lo ricordo che si fosse messo in collegamento, i mercati sono chiusi, mercati aperti questa mattina in Asia, non dappertutto, ma con un oro che ha toccato un nuovo record a $1,510 all'oncia, e ha fatto, visto che volete saperlo, un più 40 quasi per cento, 36% in un anno, mentre l'argento ha fatto un più 100% sempre in un anno, e l'euro che è a quota 1,4542, quindi sempre forte nei confronti del dollaro. Vorrei concludere l'approfondimento con il direttore del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, per quello che riguarda i dati diffusi oggi dall'Istat sulle vendite al dettaglio a febbraio invariate, ossia al netto dell'inflazione in calo di almeno il 2%. Dopo aver analizzato i vari settori, passiamo adesso invece ai canali distributivi, perché anche da quello si capisce la contrazione dei consumi. Mentre vedo che continuano i messaggi al 349-238-6666 sul tema del downshifting, del cambiare lavoro riducendo salario e anche i consumi, qui mi sembra, ma non possiamo tornarci obiettivamente, il libro è di Simone Perotti, la casa editrice si chiama Chiare Lettere, qui mi sembra che più di downshifting stiamo parlando di downshopping, dottor Bella, perché non è, non mi adesso non voglio buttare tutto così, ma mi sembra che la contrazione dei consumi non rientri in una scelta in molti casi, ma purtroppo in un obbligo. Che cosa capiamo invece dai canali distributivi? Cioè, solo i discount vanno bene, più 1,5% in valore, che vuol dire anche qui un dato leggermente negativo. Contrazione negli alimentari tradizionali, ma anche negli ipermercati, che invece avevano tenuto tra il 2009 e il 2010. Bella. Sì, secondo me questo conferma la difficoltà complessiva. il dato funziona anche positivamente, nel senso che i consumatori hanno diverse formule e possono approvvigionarsi dove meglio credono e quindi scelgono in questo momento il discount perché ha mediamente dei prezzi inferiori, quindi da questo punto di vista diciamo c'è la possibilità di venire sfruttata, però dal punto di vista macroeconomico certamente il dato non è positivo. Io ho anche i dati Nielsen qui di fronte che mi confermano che tutte le tipologie distributive hanno delle contrazioni abbastanza rilevanti. Il discount, come già capitato in passato, nei momenti diciamo meno facili degli snodi congiunturali per le persone, invece fa segnare degli incrementi che non sono soltanto del mese di febbraio, ma che sono anche dei mesi precedenti e probabilmente si confermeranno a marzo. Sì. Ecco, forse c'è anche da dire un'altra cosa, che questi primi due mesi, sia in termini di settore che in termini di canali, purtroppo non ci lasciano ben sperare neppure sul prossimo mese di marzo. Le anticipazioni che si sentono in giro, le auto, quello che vediamo sui carburanti, anche sui dati Nielsen, sul grocery, dicono e confermano che insomma diciamo il momento difficile proseguirà ancora per diversi mesi. Poi, ecco, mi faccia capire però una cosa, perché voglio dire, questi dati sono a livello appunto reale, quindi tenendo conto dell'inflazione, peggiori del 2010. Ora, il 2010 era l'anno in cui si è scaricata in maniera molto forte sull'economia reale la crisi finanziaria, quindi parlo di occupazione e cassa integrazione. Nel 2011, nella fine del 2010, c'è stata obiettivamente una ripresa. Lo stesso Centro Studi di Confindustria l'altro giorno ha detto: attenzione, che sul fronte occupazionale dovremmo aver girato la boa, la parte più negativa. Allora vorrei capire, secondo lei, questa è ancora la coda della crisi vera e propria, oppure in una crisi che sì, da cui stiamo uscendo lentamente, ma da cui comunque che abbiamo lasciato alle spalle per quello che riguarda la parte più virulenta, si sono innestati altri elementi. Gli ascoltatori citano rialzi nel prezzo dell'elettricità, il prezzo della benzina grazie alle accise ma non solo, e altri consumi addizionali IRPEF, per cui che con la crisi c'entrano obiettivamente poco. Beh, io direi che sono perfettamente d'accordo con i suoi interlocutori, con le persone che le telefonano, nel senso che dal punto di vista diciamo statistico degli uffici studi la recessione è certamente superata, però dal punto di vista pratico bisogna fare una considerazione: se la ripresa è eccezionalmente lenta, dal punto di vista pratico è difficile fare la distinzione tra un momento di crisi e un momento di superamento della crisi, cioè c'è poco da fare, il reddito disponibile non cresce, anzi anche nel 2011 potrebbe ridursi per una serie di problemi che hanno a che fare proprio con la produttività e col prodotto, e ci sono consumi obbligati come le assicurazioni che hanno dei tassi di inflazione molto elevati, come anche la benzina, io ho fatto il pieno ma a 1,520 in termini di diesel, come anche altri consumi che sono diciamo al di là delle scelte, fuori dalle scelte dei consumatori, che restringono poi le capacità di spesa sulle categorie che invece scegliamo liberamente, quotidianamente al supermercato, nel piccolo negozio tradizionale. Quindi questa difficoltà c'è, bisogna distinguere l'uscita dalla crisi tecnica che c'è dal ritorno a una situazione di maggiore equilibrio, di maggiore stabilità, che possa restituire un po' di ottimismo per le prospettive delle persone. Ancora non ci siamo. Un'ultima domanda, visto che c'è poco da attendersi dal punto di vista dell'iniziativa diciamo governativa, perché adesso vedremo quale sarà la frustata dell'economia promessa dal ministro Brunetti e dal ministro Tremonti, però dubito che possa arrivare molto per voi. Voi vi attendete un 2011 sostanzialmente di galleggiamento difficile, o se vi fosse una riforma fiscale e dovesse arrivare entro quest'anno potrebbe cambiare qualcosa? Secondo noi potrebbe cambiare qualcosa, il problema è se si vuole partire realmente con questa riforma fiscale. Però io qui devo dire una cosa: che cosa intendiamo per riforma fiscale? Se intendiamo fare anche delle operazioni importanti ma che spostino il gettito da un'imposta a un'altra, dal centro alla periferia, eccetera eccetera, no, quello diciamo può avere degli effetti in lunghissimo periodo sull'efficienza del sistema produttivo, cioè la fiscale che migliora anche l'impiego dei fattori di produzione. Se invece parliamo di riforma fiscale in termini di riduzione una volta per tutte del carico tributario e contributivo sui redditi da lavoro, allora quello sì, anche se è una riforma diciamo che restituisce poco reddito disponibile alle persone, ma le persone la capirebbero che in prospettiva si sta cominciando a percorrere una certa strada che ci porterebbe diciamo a avere più quattrini in tasca, e quindi da subito le cose migliorerebbero, magari di poco. Se invece parliamo di questioni tecniche pure importanti, gli effetti si vedranno solo nel lunghissimo periodo. Allora, no, sorrido perché lei a quanto l'ha pagata la benzina? Un euro? 1,520 il diesel. Beh, c'è chi scrive dov'è che le chiedono gli ascoltatori dov'è che ha fatto la benzina alla Carita. Alla Carita, ah, ecco, è il diesel. La macchina diesel, non posso metterci No, mi raccomando, non lo faccia che si rovina le vacanze. Grazie al direttore del centro studi della Confcommercio, Mariano Bella. È puntata oggi sui consumi, sui non consumi, quelli di Perotti, sui consumi in calo, sul cambio di stile di vita, sui non consumi, quelli della Confcommercio, spesso obbligati come non consumi più che come scelta, e sui consumi o non consumi turistici. Ogni anno c'è la Pasqua, ogni anno escono i dati di Federalberghi, Federturismo, e da un po' di anni sono pianti di dolore che vanno in parallelo con i commenti che invece riceviamo: ma cosa dite, i ristoranti pieni, gli alberghi pieni, le autostrade bloccate. 50 milioni di italiani non si muoveranno da casa, almeno questo dice la ricerca di Federalberghi. La contrazione del giro d'affari di Pasqua è prevista del 19%, cioè meno 19% nel giro d'affari. Si spiega anche con la coincidenza del 25 aprile con la Pasquetta, il 1 maggio che è una domenica, ma insomma, secondo Federalberghi, il rapporto presentato attraverso anche una ricerca effettuata è soprattutto la preoccupazione legata alla crisi economica globale a frenare i consumi turistici. E quindi, contro i 4 miliardi dello scorso anno, quest'anno le stime sono di 3 miliardi e 320 milioni di euro di spesa complessiva per Pasqua. Roberto Corbella, presidente della Stoica e l'Associazione dei Tour Operator Italiani, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera anche alla dottoressa Mara Manente, che è direttore del CISET, il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi. Il traffico, e poi vorrei capire se anche a voi risulta una contrazione del 19%, che mi sembra tantissimo. 349-238-6666 per gli sms. Dunque, dottor Corbella, voi come tour operator fate anche e soprattutto outgoing, si chiama, se ben ricordo. Sì, verso l'estero, per esempio. Da non confondersi con l'outcoming. Però avete i dati simili, meno 19%? Ma allora, intanto io ogni volta che si sente parlare di dati penso al famoso pollo di Trilussa e alle statistiche, quindi credo che vadano prese con le pinze. La dottoressa Manente ci spiegherà poi anche che si possono leggere e fare i sondaggi in tanti modi. I nostri dati non sono così drammatici, diciamo che noi stimiamo una Pasqua in linea con quella dell'anno scorso come dati globali. Come lei ha ricordato, molti dei nostri vanno verso l'estero, ci sono però anche mete italiane. La Pasqua è tipicamente una meta italiana perché è una vacanza più breve, anche se quest'anno capita molto avanti e quindi si presta anche per viaggi più comodi, insomma, più interessanti. Quindi noi registriamo un buon andamento per quello che sono le mete classiche, quindi le capitali europee o comunque città come Barcellona che vanno sempre bene, Parigi, Berlino, Praga. Poi prima avete citato i dati, 1,45 il cambio euro-dollaro, sì. E questa è una grande opportunità, gli italiani amano molto lo shopping e quindi in America certo. In questo momento, o comunque tutti i mercati area dollaro, ha un'opportunità di spesa assolutamente vincente. Quindi questo anche per dare una nota positiva. Non è certamente sento molto tonico, bene. Ma io credo che non è un anno eccezionale, questo lo dobbiamo dire, e sicuramente gli effetti della crisi li abbiamo sentiti anche noi. Ciò non di meno, la vacanza sempre di più diventa un qualche cosa che è irrinunciabile. La gente magari accorcia la durata, magari sceglie molto con cura le varie formule, chi prenota con largo anticipo, chi prenota all'ultimo momento cogliendo i saldi. Quindi l'attenzione al prezzo è sicuramente una delle prime voci. Ciò non di meno, lo stress che viviamo quotidianamente richiede tutti questo bisogno di staccare. E quindi noi lavoriamo su questo, cerchiamo di dare un'opportunità. I prezzi sono particolarmente aggressivi, ci sono delle condizioni di vacanza che sono veramente irrinunciabili. Qualche volta dico, costa di meno andare in vacanza che rimanere a casa propria. Vabbè, dipende cosa fa una casa, mi scusi, però irrinunciabili per voi capisco, insomma, l'enfasi ci mancherebbe, però insomma, di irrinunciabile nella vita c'è molto poco. No, adesso per essere proprio seri, dottoressa, ce ne sono altre prima, certamente. Ecco, allora, dottoressa Manente, sì, anche lei se la sente di contestare questi dati molto molto scettici degli albergatori italiani, meno 19%, addirittura 600 miliardi, più di 600 miliardi di differenza, 600 milioni, mi scusi, di differenza rispetto all'anno scorso, da 4 miliardi a 3 miliardi e 270. Beh, guardi, innanzitutto c'è da dire che il presidente Cordella ha messo il dito sulla questione, cioè il fatto che appunto poi i dati e le statistiche possono essere elaborati in vari modi. Io non ho un osservatorio specifico per il periodo pasquale. È probabile che ci siano delle valutazioni corrette nei dati di Federalberghi per quanto riguarda per l'appunto il loro ambito di competenza, e che questo non significhi una perdita così significativa invece se noi andiamo a considerare l'intero mercato turistico, che è fatto non soltanto dalle categorie alberghiere alle quali Federalberghi fa riferimento, ma è fatto anche da una molteplicità di altre tipologie di ricettività e di vacanza. Peraltro, non più tardi di un anno e mezzo fa, nel 2009, questo fattore aveva effettivamente determinato uno spostamento di proprio di modalità di vacanza, e quindi si tratterebbe appunto di cogliere un po' cosa sulla quale no, noi mi faccia capire, perché forse ho intuito tra le righe. Lei dice può aver ragione Federalberghi perché i suoi associati sono albergatori italiani. Però se poi uno parla con i tour operator che portano appunto con l'outgoing le persone anche in destinazioni straniere, mete straniere, la situazione muta, il che vorrebbe dire che calano di più le presenze negli alberghi italiani e nelle strutture italiane. Mi dica. In parte sì, non solo, ma anche per esempio potrebbero essere altre modalità ricettive, l'extraalberghiero nelle sue diverse forme, dall'agriturismo al bed and breakfast, che sicuramente nel periodo diciamo primaverile possono offrire delle alternative. Guardi, noi abbiamo presentato proprio martedì di questa settimana i dati di Banca Italia assieme a Banca Italia per il 2010. Sì, interessanti quelli, sì. Infatti, c'era un dato particolarmente significativo per il mercato italiano all'estero, e cioè che è cresciuto proprio il dato di spesa del 2%, quindi più di quanto non sia cresciuto il dato di spesa in incoming, quindi turisti stranieri in Italia. Cioè, questo vuol dire, tradotto, che gli italiani all'estero spendono più di hanno aumentato le proprie spese più di quanto non abbiano fatto gli stranieri in Italia? Esattamente, ovvero gli italiani che sono che hanno scelto la vacanza all'estero sono aumentati di numero, ma sono aumentati anche di spesa, non una crescita significativa, perché è un 2%, quindi per carità, sta dentro l'inflazione. Però ciò sta a significare anche, e credo sia un dato che accomuna un po' anche il mercato italiano e il mercato europeo, una sorta diciamo di selezione. Cioè, chi ha un buon diciamo livello di reddito comunque va in vacanza come tutti gli altri, ma comunque anche mantiene grosso modo il suo budget, semmai lo orienta diversamente tra le diverse componenti diciamo del suo paniere turistico. Mi scusi, lei si sarà fatta, visto che siamo in conclusione del programma, un'idea del perché gli italiani aumentino sia in valore che in volume la presenza all'estero più di quanto gli stranieri non lo facciano in Italia? Me lo dice in una battuta? Ma diciamo che gli italiani che vanno all'estero dal punto di vista quantitativo sono di entità inferiore rispetto al flusso contrario. Progressione. Ciò significa che un 2% in uscita è abbastanza equivalente a un 1,4% in ingresso. Questo significa che gli italiani si stanno adeguando a quelle che sono le modalità di consumo dei nostri colleghi europei, come il mercato tedesco, il mercato anche anglosassone, che tradizionalmente sono portati appunto per una presenza interessante all'estero. Da questo punto di vista i due fattori, cioè una assimilazione al comportamento europeo e una selezione anche in qualche misura. Lei ha ragione, dottoressa, però non è che la Germania dal punto di vista turistico abbiano pazienza i tedeschi, sia attraente e bella come l'Italia, cioè ci sono delle mete. Lei per cui, ha ragione, per ma cui sappiamo non è che appunto il fatto di come dire, sì, poter raccontare di essere stati in alcune capitali europee, in alcune realtà che sono famose nel mondo, è un elemento altrettanto importante. Io ho un'altra idea, ma è perché sono cattivo malizioso, e cioè che se non si fa una politica seria sui prezzi e rapporto prezzo-qualità nelle strutture ricettive italiane, conviene ogni tanto andare all'estero, e ce lo spiegava prima la Stoi, ma anche lei, che esistono altre forme alternative agli alberghi, i bed and breakfast, gli agriturismo, dove il rapporto prezzo-qualità... No, ma me lo dici la prossima volta, perché io devo veramente chiudere adesso. No, c'è un rapporto qualità-prezzo della destinazione, non solo della ricettività. Ah, e qui chiudo. E quindi di tutta la destinazione. Grazie, poi di questo abbiamo parlato molte volte, torneremo a parlare anche del rapporto qualità-prezzo negli alberghi. Io vorrei intanto augurare buona Pasqua a Roberto Corbella, presidente della Stoi e quindi dell'Associazione dei Tour Operator Italiani. Grazie, e a Mara Manente, direttore del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, e un augurio di buona Pasqua a tutti voi. Focus Economia torna martedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.